omaggio al mio buon viso e nascondesse il brutto gioco che da qualche tempo sta nascendo in me. Non riesco a dirlo in altro modo e tu non puoi farlo cambiare, perché trattasi di un pezzo del mio io. It's only love. Amore e fantasia.